anche a te, mi svegliato, Non terrà così male, buongiorno. E un bello, quello che stavo così. Dopo, se la casa dormisce anche. Cosa mi vuoi fare? E allora, io pari. E vedo un po' chi c'è, ho finito di dire, tutti a mare sono andati male, si è affacciato su mia parte. E non mi mai vedete un momento per andare a mare? Ma la gioventù non ha mai da lui. I giovani e tutta questa cosa, che andrà a giovani lui, non mi se mi ha mio freddo. Io sono Puoi immaginare. Vedi un po', c'era qualche altro che ho sentito avanti, se c'è qualcuno che vuole entrare. Oh, finisci. Mario Miao, aiuto, presente la Cina con furore avanti. Oh, Mario Muro è innaffarato, cazzo. Tutti riposati ci stanno, cazzo. No, Mario è innaffarato sicuramente. Che volete in radio, ha detto che c'era mai dentro la Formula 1. Ehi, insomma, stanno magari, ma vanno, e va finito. Cazzo. E a che ora io ero nel mondo dei sogni, cazzo. Forse ci abbiamo in calcio, a risura. Però, sono ben sportivi, ripiati, si ripresa l'equipe e se la baita lì. A me, a pensarmi da su chicco, a papà. Quella brava, è poco pesante, ma. Buongiorno, domani. Sì, ciao, è bene. E lo siete. Ma la Formula 1 cosa ha fatto? Non lo so, non mi guardo io, Non ha baito io, Mario Mao, mi dice la baita di mandare. Hai capito? Sì, capo, ma Mario Mansell, nulla, non ha seguito manco lui. Ecco, Mario, tu puoi essere guida. Maria, ma ha visto che vai a vedere pure secondo te, e Mari, ma salutate a te, ma ormai l'ha detto, saluto a tutti. Ciao, io Mari, e va Mario Mansell, aspetta a confusione, mi stavo più di... Poi stai da dove... Dopo di andare dove c'è la scelta. E verdemente è pigliato una pelle pasturata e... Ehi, non le fate nulla. Vai, la vuoi dire con la medicina, va. Dai, se te la ho pigliato più la medicina. Mario! Poi un sirurgo con un dito che aveva la pelle in passato tu. Davvero, se è possibile più grossa che possibile, aveva la pelle in passato male. Penso che tu lo sei, l'hai approvato. Ci ha provato tutto, se hai capito, da voi. Se te ne sei ridato vuol dire che c'è proprio tutto. Ma è tutta questa cosa che si sente in parole. Ma non si usa. Davvero. Poi se l'ho fatto male a lavorare una di Peppe, che ha fatto male a me. Ma aspetta una cosa. È curioso, da niente. Comunque, buongiorno Antonello, la mazza che te ne varia. Buongiorno, alla volta. Ehi, gappa gappa. Comunque, la Formula 1, secondo e terzo. Andiamo, gappa gappa. E io sono giovanotto pesato, se ne la panino da Loreto. E te ne devi venire che me ne faccio da. Attore! Ancora dorme, si sente il paracuti mutati in legno e rompi. A forza! Le stazionali misurate dirai in santena. Prega sì, voglio morire. E a forza. cazzo che domani cazzo non riesce a buccare un rosso, mi trovo a provare le stazionarie. Cazzo, Mario, non ti chiedo, cazzo, gli affirai tu a dormire 4 minuti, ho messo la stazionaria, ma mi ha accusato, mi sono. Anche a mezzapari l'abbiamo comparato. Quando è possibile ti fai pagare un caffè, cosa vuoi, cosa mettere, cazzo? Fare un caffè dove non è il problema. È la massa caffè che mi vuoi tanto, e adesso non se ne paga mai. E a chi legna avete? Di più. E cazzo, allora la questione è interessante. Poi da più Bartolini, cazzo, se tu pure devi pure pensarmi all'asse, no? Se l'asse pensano a te. Bartolini, bobo. Ma dov'è? Dove hanno qualità più o meno? Sarrati. Ma che cazzo non è che tu si deve arrangiare assai, no? Ti dai un piatto a me e un piatto a Luca a te, c'è ragione, c'è Mario, se la ci vuoi fare. Ah, sì, hai capito Mario. A me pare il Santonello, che si è diventato troppo attirato, E allora? È di burla che hanno diventato ricco, ma non lo c'è un sciaccala. Ogni cosa che deve entrare la mano, mi si caccia per un resto che mi bugni. E lo attore? Non voglio chiamare, lo trovi, così che... Mario, allora bisogna anche capire qualche volta, va. Pagata! Dimmi una cosa, come sei c'è il radio, Mario? Dimmi tutto. Allora, 9:40 per la truppa, Radio 5, capo. Allora va bene. Un attimo solo. Grazie di lui, mi saranno i primi. Ero, Antonè. E tu la vatti nel bisanto, la massa che te ne varia. A casa si vede tra culaia. Ma sono già sveglio da 4 ore. Non hai visto la Formula 1, io sì. No, che stavano tutti dormendo, non mi scusi. Ah, che spericolo, poi i occhi. E lo deciso di poni a posto. Un po' quello coso delle radio. E te la giuria a posto a posto. Alla devo poni l'ascia a poco. Kappa. Come vuoi l'azione? Ehi, capa, è il cane, te l'ho detto. Tu Luca, a poi il forno con un battato messo cagnolino. Il cellulare da vicinese gli avrebbe messo niente. Ah, che è stufato! Stufato di cane alla cinese, cappa! Aveva visto un film in un ristorante cinese, aveva tutti i gabbietti, tutti in fila, tre tirani, chihuahua, occhi sciai, tutti i cani di piccola taglia e qualche duro di taglia grossa. Allora, andando a tagliare le grette, le buria sciuvalava, buriano, si sciuvalava, te lo buriava, te lo preparava in cucina. Buongiorno, e che cane è quello lì? È un Yorkshire incrociato. Ah, ma originale, biondino. E capa, biondino, mi pare che siamo io. Ehi, quello che c'è per voi era così, il primo, poi è morto, poverino. Però quello c'era bravo, Capita, gli suonava la fisarmonica a bocca e cantava. Bello! Quando è morto, mi ha dimostrato la cassetta, la fisarmonica, che era la Giulia. Mario, allora canterà dopo. Ehi, mi sono cari che sono ben intelligenti. Arrivo. E così è purtroppo. Chi se ne fa chiamare un meticcio, tagliami ore, tipo che sciai. Ha sbagliato il nome a quelli, Ghira, che è femmina. E se ne ha poco, cazzo, si mangia tutto. Per Marco non è resiliato. Tutto è, mia zona era preparare la cartoppa con un vinoceto. Fate l'immagine che ha voluto la cazzoppa. La pagazza, ma... Vabbè, a Torino va, mi preparo. E beh, che chi mi prepara a me la colazione, eh? Mario, vivi! D'accordo, dammi una decina di minuti e sono lì, aiuto. Sì, mi ammazza il caffè, amaretto. E ma se manda a comprare a me, a chiedere quelle boccavini. Cazzo puro, coralito. E allora, cosa mi vuoi dare? Un cannone, lo vuoi? Deve essere da Chirucci. E ci vuole la crema ripiena, i diplomatici, la bada se mi imbaglio, mi divido Mario. Le pesche, i cannoni con i siciliani, vero Mario? E lui se li voglio dare io. No, chi c'è di gesso e pizzanti? E di qualcosa da zitta ma lì zitta allo stesso tempo. Ah, che ho preso, ma chi lo fa? Allora, va. Ehi, se non si sente chi su cani lo canta. Lo canta, no. Ha provato già a suonare con la fisarmonica, per se si mette a urlare come faceva quello mio. Chi ce li faceva è tonto la balla. Pensa solo a mangiare una bomboletta, E così è ghiaccio. Ma io è meticcio, non è che razza più bura, va? Sarà pagliccio, che è tonto. Chi te la biondino, tutto illuso, signorinetta era. Che cappa, signorinetta è da bura. Allora, io c'ero un affetto, non ne vuoi un macchino, pur sfiducia. I bravi andranno a passeggiare, ma non quando arrivi al dunque di musicheggia. Ma la giusti, ma tanto magna, magna più di un cristiano. Signora, che tutta la lì è pure nella magna, c'è tutta la lì magna, e la bella si cocca la guccia, beh, di faccio. Signora, caro, si trovo già tutto, e la bella si trovo. sentite direttamente in campagna a continuare a finirsi quella guretti che stava facendo. Ma li ho sentito stamani presto. No, ma stavamo trovando anche Gio Maria fino a 5 minuti fa. E chi? Gio Maria, mi senti? Maria in campagna. Perché ce l'ha anche in campagna, non l'ho sentito io, però a Mario sì che l'ho sentito, Mario Mao, a Gio Maria non l'ho sentito stamani. Oh, ma in campagna era? No, non era attivo. Avvera, buongiorno. L'ho sentito, direttamente stamattina quando c'era Mario Mao. Lui era addormentato. Ma Mario Maser. Gava gava. Però il cubetto è freschetto, eh. Rosa, scusate me. Ehi, tutta di più, si me. A tu nel ministro che arrivendi. Ma al sole, sì. Ma qui, all'ombra, con la finestra aperta c'è fresco. No, io sono buono, senza maglietta, per la luna gioco. Ma vuol dire che c'è già il sole tu lì? Ma io non lì, sono in macchina, sono tappi per la roccia, sono maglietta. Sono tutto gonfio. Bello. Buongiorno, buongiorno. Sono anche l'altro Antonello con buio. Antonello tutto gonfio, sì. Pensa che tira la cucciolata, riduzzi. Poi ero andato a letto ieri notte, non ce la faccio andare a camminare, sono venuti questi dolori intramuscolari. E da... Non ci facevo andare in bagno, non ho più amici lauli. Gli c'è la bicciaglia mia, è carrogna, e mi sono pisato gobbo, adesso già mi sto sciogliendo. La moto, capito? Quando c'avevo la moto tutto il giorno in giro, dal caldo al freddo, tutta l'acqua che ho preso, adesso ne ho le conseguenze. Già lo so che anche la moto è già qua, non lo dico a me e a lui, mi fratello, ma non ho moto quando cammina, anche è sempre moto, visto. Fa male la notte dopo tanti anni, d'estate si può usare, ma d'inverno meglio niente. No, io ce l'ho, la uso il periodo estivo solo quando c'è proprio caldo, se no gli altri bene, arrombata in garage. Ah, ma ce l'ho anch'io la notte, ma io ce l'ho giù al corso, centro storico ce l'ho lasciata. Se lì ferma, quando va giù cadrà l'abito. E anche io, quando era l'anno scorso, l'ho scoperta, perché è coperta tutta quanta, stanno più a più, guarda. L'ho pulito la candela, gli ho messo la miscela nuova, è partita la prima, l'ho fatto un paio di giri e se la giudono da parcheggiare. Ho gonfiato un po' le gomme, perché se erano scese. E l'ho rimesso a posto. Adesso, quando fa bel tempo, la terra pure in moto, mi posso aprire la terra parcheggiare. E non fa nuova la mia, è un bastone 150, 125, però il motore è 150. Sì, a voglia, allora, già cammina. Cos'è che ti pare che sono modulati? Senti. A chi? A me? È attivo, no, è quello. No, no, quello, ma quello sai, siete vicino voi due, io lo credo. Siete a Fioriballa, giù mai. Siete che se ne va appena il batter. Ah, no, non lo so dire, sale sempre prima. Ma quello me lo conosce. Sì. Sono passato in una chimica alterna, brutto. facendo del latte dolce e tutti quelli che sono in rotta, dai, così non dimentico nessuno. Parlando con Bene, va adesso. Adesso già sei tu. Me la potevo farti dire la prima, che altrimenti non me l'avviso io. Boh. La vela, allora, c'è fare su passone, là, Mario, sì, a te no. Non è nulla. Ci fa male allora a te, dai. Beh, già c'è dalla fianco, la brasiliana, dai. Raccomando, mi raccomando, allora, che sia bella molaccia, Sfortunato sono fatto, è bionda, chissà, cazzo. Ma qualcuno non ci crede però, eh. Ma dai, no, che ha, se vuoi te la posso salutare. Oh, a me no, non di certo, in realtà, io ci credo, Se lo dici tu, c'è qualcun altro magari non ci crede. Ma non ci credo io. Pittina, Bobo. Ma io ve la potevo anche far sentire, non c'è un problema, capito se non ci credevate. A Vela, falla sentire a Vela, che a lui gli interessa. Tommy, Tommy! Ciao, pietà! Ma chi c'è Maciu? Chi c'è Maciu, pietà, Chi è Maciu, via? Pietà! Mi pare che mi pigliano in giro una parina, Io ti sto pigliando in giro, infatti, proprio... pittina, ve la fottiti. Aiuto, uccidetevi! Buongiorno, trommi! Mi rovi, si dà tu, semmi. E si dà tu, Anzi, era trombito, se si dà, poi da voi si tornerà a trombì. Allora, contento sei, cane che ha vinto. Chissà quanto sei sportivo tu, cazzo, che ti interessa a dire un caffè dello sport che ti piace. Ma allora, da voi è il tuo segnale, ti chiamano la mano, la scolato. Aspetta un attimo, un buffo, che la prima mi deve far sentire una cosa. Ciao Pierpaolo! Buongiorno! Chi sta? È positivo, adesso ho ascoltato. Scappa. Grazie, Gufo, riprendita. Papa, cos'è che ti stavano dicendo, Natali, dillo a me? Mi stanno trattando male la mattina presto questi qui, sono delinquenti. Aspetta, li dici, specialmente a quello lì, quello piccolo e nero. Ecco! Natalino! Tu! Fermati al bar del coso, che prendiamo un caffè! Sto già a casa, sono! Sono già a casa, che devo preparare da mangiare qua, se no rimaniamo senza mangiare, non va bene! Dica, c'è un break! Allora entrare, cuffa! Ehi, avanti il brecco, che non ho sentito io, avanti! Bobo, grazie, amico, come ti mi tratta animare, Giuseppe da questa parte, cappa! Ciao Giuseppe, ben sentito, ti ho sentito poc'anzi, ma ero impegnato! Cappa, allora stavi passeggiando ai giardinetti stamani? E cassa di positivo e la bimba bisogna anche portarla con queste giornate di sole. Eia, ma però c'è vento, questo vento all'ombra è freddo, è ghiacciato, al sole si sta bene, all'ombra no. Cassa di positivo, grazie, confermo al 100. Cassa, Gio Maria, e tu dove sei? Non eri in campagna. E allora fulmini, paglia, ma scherzando sta, dovevo scendere ieri e non ci ho sceso, dovevo scendere stamattina nemmeno, non ne ho voglia, mi sto in caldo che sto più bene, tanto non mi creda nessuno se non ne faccio, capito, per cui alla settimana prossima a fare qualche cosa. Vai, Giovanni, fate un caso, una buongiorno Rossi, ben sentita e buona giornata. Mi c'ho la signorina che non si sente bene da sabato, da venerdì sera che non si sente bene. Così che forza maggiore devo rimanere a casa o non si sente bene, dai. Mi sembra che quello se ne è alzato presto perché aveva altre tensioni, pur macchioso, però guardiamo, lo conosce adesso com'è, capito? Non dormiva pensando, chissà che cosa stava pensando stamattina. Ogni tanto portava il caffè, dà la conferma a Ru. Ehi, ma sei tu a te? Ero tu un militare, l'hanno fatto, ogni tanto pisata, che si è tragica, stai a fare un avanzino. Bacchioli, questo da quando è andato in pensione, che Tricuri si sta prendendo, che chissà, non sai cosa bisogna fare nel room, casomai apri quella finestra, ok, vabbè, chiama Giuseppe allora che è entrato, scusa Giuseppe, ti ha saltato subito, buongiorno, e ben sentito, buona domenica a te in famiglia. Ok, c'è anche Vela e ci dovrebbe essere Natalino anche. Avanti Vela, riprendila. Ma come io sto venendo a prendere questo caffè con Mario, vai. Ah, si sente male Mario, così che il caffè dovrebbe farti male ancora, Non lo so, io gli ho detto, è la sua supposta, ma gli ho detto che preferisce il caffè, adesso mi bevo il caffè e poi vediamo. Eventualmente dallo saluto dove andare per quella cosa che gli fa bene, ecco. Ok, bene. Avanti Giuseppe, ci vorrebbe essere anche Natalino, avanti. K di positivo e ricambiati gli auguri di una buona domenica anche a te, al centro e a tutti gli amici che sono in ruota. Sì, ci dovrebbe essere Natalino e lo rilanciamo subito. Gio' Maria, avanti. Natale, quello c'ha le mani in mezzo al torrone, che c'è salito, è salito la 25 da lui, c'è il torrone in mano adesso, Giuseppe. Catali positivo, mannaggia. Natale, lascia il caro torrone. Malazzo, a te in maglia. Non entra adesso, adesso è impegnato, caro mio. Oh, avanti, grazie a lei, pigliatelo tu, dai. Ehi, è impegnata ai fornelli, non è sentito poco fa, che se non così non magna. Ma infatti, ma date la 25, qui c'è la 25, non lui, O lui cucina a posto della 25, sarà? Boh, cosa ne dici, Vela? Evidentemente sono scesi per fare questi caffè là. Ripeti la Giuseppe, dai. Giuseppe, non riprende. Ripiglia, gufo. Cava, cava. Ehi, io che ho corre a Andeni. Ci ho messo la teglia, la carpa, le patate. Quattro limoni, tutto bello condito, ce l'ho bella infornata, puro limone in bocca le sta di brutto, pari un coso, pari, una girnia. Che cosa stai cucinando, graziati buono in forno? Con le patate, l'origano, prossima. Sì, l'ho bussata e so anche che per la fare i pesci di fiume bisogna anche saperli fare, grazie. Dato io la ricetta perfetta, grazie, guarda. Quel tipo di pesce te la do io proprio la ricetta perfetta, come la faccio io, stai tranquillo che ti lecchi anche le dita. Guarda che io la faccio anche soffritta, poi faccio il sughetto con i capelli, non sai cosa esci, un bombon. No, ma come la faccio io, guarda, è tutta un'altra cosa, guarda, io non ci credevo, però come lo mangiate, come l'ho fatta io, non ti dico niente. Allora, la taglia a fette, e fai, metti la teglia, metti queste fette di questo pesce dentro, e fai aglio, prezzemolo, peperoncino, pomodori freschi. Poi un'altra passata, le fette sopra, aglio, prezzemolo, peperoncino, i pomodori. Dopo la metti in forno, la metti. E dopo mi dici come esci, grazie. Falla così, vedrai, e dopo mi torni la risposta. Gli hanno mangiato altro pesce, ha fatto così, quello non l'ho fatto così. Peperone già mi hai messo, sì. No, lì non ne ho messo. Nel sugo sì, l'ho fatto tipo arrabbiata, l'ho fatto con il fuser, all'oro. Poi mi sto facendo i carciofi con i finocchietti di campagna, senza le patate. Buoni, buoni, caspita, alla grande. Burro, magi, Giuseppe. Falla come l'ho fatta io, vedrai che dopo, burro è, guarda, poi tutto il sapore lì, non è che sia asciutto, bensì è abbastanza morbido e molto piacevole, capito? Per cui, sai, sono da parecchio che non lo facciamo, perché non ho visto più lì al mercato, non so perché, prima invece li provavo, 4-5 kg così. È fatta così come ho detto io, è un bombo veramente. Grazie, a dopo l'hai presa. Al mercato non li vendi, c'è una lì. No, c'è un amico mio che sta andando a prenderle. Le figlie disoccupate e se le vende. Se le vuoi io glielo dico e quando me la porta ti chiamo. Vieni, te la figlio, te la porto. Ma io le ho prima già li vendevo. Io adesso mi sono scritto la ricetta che mi ha dato Gian Maria e quella la voglio provare perché già come lo stava dicendo avevo già la colina in bocca. Guarda, se fai così, guarda, vedrai, poi rimane, non rimane asciutta, capito? Per cui c'è tutto il gusto, capito? Grazie, sinceramente, guarda, mi fai, anzi, te lo chiedo, per favore, se me la busca almeno 4 kg, altri 4-5 kg, almeno mi piace molto perché sono da tanto che non ne mangio, che non so dove trovarle, per cui non ti chiedo a te se me la buschi, capito? 4 kg mi fa bene, capito? Grazie. Ehi, già glielo dico stasera, intanto Luigi deve andare a casa di mia nipote, perché va a casa di mia nipote questo tipo, che è amico del ragazzo, va. questa allora, d'accordo, grazie a Dio, io pure tranquillo. Molto bene. E vedrai che la faccio e si recano le dita qua ogni volta. Prima i miei figli non li mangiava nessuno. Gliel'ho fatta assaggiare, guarda, ma ti dico che dopo la mangiavano tutti quanti, anzi, me lo chiedevo la posta da comprarla, perché allora la compravo al mercato io. E la compravo apposta per loro, perché a loro gli piacevano molto, capito? Perché tu sei, poi a me pure mi piace, che okay. Me la porta, mi fa un grande piacere, grazie Garzia, a te ancora, vai. Ehi, te la busco, perché non te la busco, tanto qui su le penne a che sta a travagliare, e dunque già ci dà di chi fa un prezzo. Siamo, meno male, sono quasi arrivato a casa ed è subito pronto per mangiare. Cazzo, mi siete venuti imbarrati a rubarmi, mamma mia. Cazzo, che parlando poi di pesce mi, buono, buono, buono, buono. Positivo. Gianmarì, come ti sto arrivando? Fai un passaggio, sì. Attenzione, Gianmarì, a Ferre Giuseppe, cappa. 9.30, sì, 9.30 sì, a casa, Sei fortissimo, la radio è super. Cava, cava, bene, vuol dire che tutto sta girando per il verso giusto. Va benissimo Giuseppe, va benissimo. Una buona radio e un buon segnale, va benissimo. Ok, sei barra mobile comunque. Cappa di positivo, adesso sono qui sotto casa di suocera e oggi ci ha voluto tutti a rapporto. Ok. Oggi, poi quando si cambia a casa, no, per il pranzo, anche se tua suocera forse c'è più appetito ancora di solito il pranzo di casa, o no? Cazzo, poi quando sei stato più assieme mi vai mangiando e bevendo e manco di una pizza. Ma infatti le cose le suocere già le sai che cucinano bene, per cui fa sempre piacere, vai. Io guardavo la mia suocera, faceva questi piatti, non aveva, ma troppo buoni, che noi non li facevamo così buoni come li faceva lì, proprio all'antica, Che cappa di positivo, Giovanni, che ci mangiavano i movimenti di farina e cose varie. Infatti, faccio due razioni, mattoni, un fuoco di corso, niente da fare. A tutti i costi si è messo a fare la pasta. Vedo un po'. È così veramente. Ma già si dedica molto Graziano pure. Graziano fa dei piattanti abbastanza. Ed è già di buona forchetta, tutta la famiglia in quel QTH. Già si deve fare anche Graziano comunque, dai, vero Graziano. Di positivo, d'accordo al 100 con te. Io signori sono arrivato qui sotto casa di suocera, adesso stacco Buona carica a tutti, buon proseguimento di giornata e salutoni all'EQRA familiare da parte mia. Ciao Giuseppe, ciao, ce la riascoltiamo, anch'io sto rientrando, vai. Saluto anche a tutti quanti che sto quasi per parcheggiare, vai. Saluto anche a Maria e anche a Graziano, ciao ciao. Ciao, Vera. Buon pranzo a tutti, famiglia, ci sentiamo, vai Graziano. Ciao Giuseppe, buona carica a te, a tutti i componenti del QRA, capa, anche a te, quella la stessa cosa, buona carica, cava cava, riprendi Giomari, Martorello, fuggiti di sé. E tu, beh, l'abbiamo lasciato in parcheggio, hai ragione, è andato simile. Certe volte, vedi, ci dimentichiamo questo a ruota, a far girare questo. E quella è una cosa grave, non dovrebbe succedere perché dopo succede il patatracca e bisogna starci molto attenti. Purtroppo anch'io sbaglio molte volte, questo, che, vabbè, diamo scusa allora. Antonella, sì, batti un colpo. Quello sta mangiando a faccia tua e sta che arriva la chinua. Ho sapendo di dire all'anca, non ti ci ripassi a Maria all'anca. A me mi pare che fate amare lunga, malissimo. C'erano tutti, era in tournée. E le c'era un fumo dalla legge, ci mangiava. Vida, tutto questo serra secca, ragazzi, ha illuminato, ci mangiava. Deve essere anche a che campagna, qualche spuntino. Davvero, tutta dolore. Già le fai frega frega questa signorina oggi. E allora, è Natalino molto molto, chissà cosa è combinegni ai fornelli. Chi si ha le mani in mezzo al torrone perché bocchi dolci. Capito? Chi su in mezzo al turrone avanti, cerca di baracchino, eh. Ehia! Certo, colocchi via, gli altri ti fanno da penna ai vernicenni. Ah, va, che buccia, uno c'è la parte, uno c'è a terra, la finasso, Antonello. Con l'occhi di vecchi strani oggi, E allora, e chissà Mario, si è truccata stamani, chi su ha inteso? Già l'ho sentito, ma ha chiamato e sono andato a fargli visita, abbiamo fatto la chiacchieratina e così via, capito? Già me l'ha detto che c'eri tu stamattina. Sono andato a trovarlo e 10 minuti l'ha fatto piacere, per cui ci aveva fatto la chiacchieratina in verticale. Ehi, io vi ripeto i curibaldi passati, sono che sono passati. Non ho capito, ripeti? I pizzini con le palme passati sono lì, qua sono passati con le palme e i rametti dell'olivo. Sì, ce ne sono passati parecchi qua, oia, cazzo, penso che ci sono i palmi qua nel cortile, cazzo, fracassati rari, non vi crescono mai, chissi, cazzo, che ogni anno li fracassetta questi pizzini, cazzo, hanno arruinato i saiburi, cazzo, boh, io basta comprendi, cazzo, ma sono passati comunque, già. Anche qua, stamani, ma dato un po' di palmi, un po' di razzi da riva. Chissà che la benedica perché già è bravo, guarda l'assino, già lo conosco. Abita qua, già è un bambino bravo, là, già le avrà fatte benedire. E anche Bellini, mi aveva una freccia grande e grande, non era anche la vetta. Ehi, ne fanno tanti tipi, dai. Ne fanno tanti tipi, per cui in questo periodo che qua passano tutti i tipi, per cui se ne sono belli veramente, dai. Bene, mi sembra che già l'abbia preso. Tu ho preso i risultati, buon popolato, da buon popolato ancora. Avevo passato una inedda, manna, chi sarà mammita pure? una guerra che buciamo a chissà. Ehi, pure io mi sono giusto parecchio in giro, entra nei buscani. Per favore, stavo c'è a me in cucina, e preparati di salata con un pinocchio del rossichetto, non sono in chitto pari. Ciao, allora, ma niente, via. Attacca e loca, attacca che dà la politica e teccia. Ehi, babbo, allora, rimaniamo nonna cana. Vabbè, ma quando si appetito bisogna mangiare, grazie. Basta la mangiare, la verdura fa bene veramente. A Giarru, a sono qua a la Graziano, quando per appetito mangia, tutti dimmi, grazie, lascia la mangiare. E allora, se mi vai a in mezzo, mi vai a mangiare tu. Avanti, appigliando i gomati, verde, con rossicce, prendi tutto faccia tu, io però lo fatti però. Papai, un passo quasi lenta e un passo quasi lugani, inculata via. Senti, ti senti cosa, c'ha di rucco. Là abbiamo fatto un giorno meno un quarto e sapete chi ora una meno una meno un quarto e da chi fa giù un sciappà a poco la sveglia manna in occhio. Grazie, ti lascio, vai, anch'io cerco adesso di combinare qualche cosetta, dai, e Dio vuole che se coincide stasera. Grazie alla chiacchierata, buon pranzo, mi raccomando quel pesce, piano piano. E va per peperoncino, messo mi hai, grazie a Prepuglio, prima di tutto. Eia, ehi, no, no, no, molto, molto, magari non messo. Se non vi sono piccante un bel, di che un minuto, ma è un bel pesce dente. Eia, va bene, buon pranzo, buona carica a te, al cuore familiare. Ciao, buon pranzo anche a voi in famiglia, dai, saluto anche dalla mia 50, buon pranzo a tutti in famiglia, ciao, chiudo.